peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Benvenuti anche a questa puntata di Salpinas, che andrà a indagare prima su personaggi, in particolare rispetto a alcune uscite discografiche, ma cominciamo con un violoncellista recentemente comparso su questi nostri stage, in particolare a Crossroads, a Correggio, nel Festival della Cittadina in provincia di Reggio Emilia. Lui è Vincent Courtois, violoncello, e oggi si presenta con queste bande originali, ovvero sia Vincent Courtois, violoncello, Robin Finker e Daniel Heckman ai due sax tenori più clarinetto. Courtois ha studiato il violoncello al conservatorio, quindi ha una derivazione classica che ben si ascolta nella sua musica. Poi ha lavorato con molti musicisti francesi come Pifarelli, violinista, oppure ha lavorato insieme a Michel Petrucciani o anche Martial Solal. Per quanto riguarda la musica etnico jazz, si ricorda anche la sua collaborazione con Abul Khalil, il musicista di oud libanese, e poi appunto a questo suo gruppo che ci presenta in questo brano una musica che inizialmente ha un tocco appunto classicheggiante, poi sfocia in una sorta di blues o qualcosa di simile, per poi ritrovare delle aree favolistiche, evidentemente risentendo della scuola di Lione e del suo folklore immaginario. Ascoltiamo il brano. Thank you. Bando originale, Virsen Courtois al violoncello, Robin Fink al sassofono tenore, Daniel Ekman, anche lui il tenore più clarinetto. Invece, da qui passiamo a una novità discografica, ovvero sia ECM, l'etichetta di Martin Eicher, Lost River, il fiume perso, un trio italiano, ma non solo, Michele Rabbia, batterista di Stanza Parigi, estimatissimo personaggio anche per la sua capacità improvvisativa di rumorista sulle più diverse situazioni, Gianluca Petrella, più che conclamato trombonista nel versante italiano, e Adin Harset alla chitarra. Sia Rabbia che Harset sono molto abituati e avvezzi ai duo, in particolare versando con Petrella, quindi questo trio si ritrova così come le proprie tasche, in un'atmosfera post ambient molto così di coloritura, molto elettronica, onirica evidentemente, con degli interventi quasi del terzo tipo di Petrella al trombone. Ascoltiamo questa sequenza che va in qualche modo a sintetizzare brani come Numbus, Styx e Lost River stesso, che poi dà il nome all'intero album. Lost River, Michele Rabbia, Gianluca Petrella, Edwin Arsen in questa, dicevamo, onirica carrellata, corsa, cavalcata musicale. Invece passiamo a una produzione di un concerto del 99, una produzione più benemerita, sempre etichetta ECM, che vede tre pilastri della terra del jazz insieme: Paul Bley al pianoforte, Gary Peacock al contrabbasso e Paul Motion alla batteria. La formazione viene così sintetizzata in un concerto, dicevamo, applauditissimo, che vede uno dei brani dare titolo all'intero album, When Will the Blues Leave, un brano colemaniano, perché ricordiamo tutti che Paul Bley ha iniziato a collaborare con Coleman proprio quando nell'Ornette giovane negli anni 60, e Paul Bley subito riconobbe il talento immenso di Ornette Coleman, e tant'è che dichiarò che con Charlie Parker si era pensato per anni che tutto da inventare era stato già inventato, non c'era più nulla da creare, bisognava solamente rifinire delle orme già pestate. Poi è arrivato Ornette Coleman che ha aperto gli universi, e questi universi ancora oggi si risentono ampiamente nella musica contemporanea, sia nella filosofia ma anche nella struttura e anche nella composizione. Quindi Paul Bley, grandissimo al pianoforte, Gary Peacock, raffinatissimo al basso, e Paul Motion, eccezionale, un sorta di Thelonious Monk alla batteria, che dei brani che ascolteremo dove si gioca tutto in un jazz raffinatissimo, fatto di delicati interplay, invenzioni, quasi estraniazioni a volte al pianoforte, giocati in questa atmosfera non meglio definita, insomma musica di gran classe. E noi troviamo prima un Mazatlán, brano di Paul Bley che risente evidentemente delle orme colemaniane, poi un dolcissimo tema sempre del pianista Flame, e quindi il brano colemaniano che dà il titolo anche al disco, When Will the Blues Leave. Thank you.

Thank you. Paul Blake, Gary Peacock, Paul Motion, da questo concerto disco When Will the Blues Leave? Questo era un album del 99 dalla etichetta ECM, ma facciamo ancora un salto indietro e andiamo a sentire alcune incisioni assai rare dell'Art Ensemble Chicago quando di stanza Parigi incideva anche per la Big Actual, ma non solo. Siamo nel 69, quindi anni di grandi rivolgimenti sociali ed artistici, e l'Art Ensemble Chicago era profondamente immerso in questo ambiente. E qui c'è una collaborazione con Alfred Panu, al tempo un musicista nero, un vocalist poeta molto impegnato anche socialmente nella battaglia per i diritti civili delle minoranze. In questo brano, Jésus une Savoie, Le Morale Nécessaire, che Alfred Panu ha elaborato insieme all'Art Ensemble Chicago, in questa alchimia di suoni. Un disco davvero raro, ripescato dopo aver inseguito lungamente questa produzione da collezionisti privati, dall'etichetta Souffle Continu, che in qualche modo si specializza in questi ritrovamenti metropolitani parigini. Ascoltiamo questo primo disco dell'Art Ensemble Chicago con Alfred Panu. Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter pour dégringoler. Je préfère rester pour me marrer. Mm-hmm. Sempre rimanendo in ambito parigino e sempre rimanendo in ambito dell'Art Ensemble o Chicago, veniamo invece a un altro disco, anche questo dimenticato ingiustamente, che vede un'altra voce, questa volta Brigitte Fontaine, cantante, una vocalist, che appunto sulla musica dell'Art Ensemble Chicago incide questo Comme on Radio, ed è una sorta di notte parigina che viene letta tramite i luoghi in cui si ascolta la radio, da chi si lascia, chi si incontra, chi soffre in autoambulanza. C'è questa malinconia che viene ben sottolineata dal suono dell'Art Ensemble Chicago di Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Malachi Favors e Jove Jarre. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Il fait traduisez.